Attenzione, attenzione! Dalle frequenze radiofoniche di Rock FM sta per cominciare la colazione che dà assuefazione. Attenzione, attenzione! Siete ancora in tempo a cambiare stazione radiofonica. L'ascolto di pane, burro e rock and roll potrebbe essere nocivo per le vostre menti. Attenzione, attenzione! Ah, non dategli retta. Pane, burro e rock and roll è una grandissima ficata! Pane, burro e rock and roll. Ci siamo! La colazione rock. Aia, pane, burro, mi cade tutto. Ridatemi il mouse. E te mi credi. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Da una Milano ancora governata dall'oscurità, eccoci pronti per la... No, Spadino, non iniziamo così, eh? Ecco, grazie. Eccoci pronti per la 35esima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Qui c'è l'Ariele, augurarvi un buongiorno. Dall'altra parte del vetro, Spadino. Ragazzi, oggi l'inizio più inquietante di sempre. Saluto Marco Garavelli, con il quale stavamo discutendo animatamente fino a 25 secondi fa. Che bello la radio. Voi non potete lontanamente immaginare cosa accade qui quando i microfoni sono spenti. Andremo avanti fino alle 9 se gli affamo. Ma penso proprio di sì. Tra qualche minuto dovrebbe arrivare anche Roberto Fricantoni, voce degli Schiantos, inventore della rock demenziale e autore di culto di questa trasmissione denominata Pane, Burro e Rock and Roll. Avremo qualche rubrica nuova, ragazzi, quest'oggi uno scoop di quelli da sciacquarsi la bocca. Abbiamo parecchie telefonate, parecchi di voi là fuori che si sono arrogati il compito di voler aiutare Pane, Burro e Rock and Roll. Ed è cosa buona e giusta, e li andremo ad ascoltare nel corso della trasmissione. Ma intanto andiamo a cominciare con la musica, eh? Che è meglio che inizio, ragazzi. Imagination, my heart going Salisbury Hill, Peter Gabriel. Ah ragazzi, vi sento belli gasati oggi. Dov'è Mr. Trombetta? Vieni qua. Ragazzi, c'ho una notizia, ma non bomba di più. Ma non ve la voglio dire io. Non posso permettermi di dirla io, Spadino. Vorrei, ma non posso. Che è arrivato il buon Frick, facciamo così, almanacco, e poi la facciamo dire da lui in persona. Ragazzi, ce la possiamo fare, vi dico solo questo. Sempre se non spacco qua tutta la strumentazione di Rock FM. Un saluto ai fedelissimi, a chi conosce questa trasmissione, ai patentati, a coloro che tra poco lo diventeranno, e un saluto anche a chi invece casualmente è finito su questa frequenza. Ciao, sono Ariel. Il consiglio che ti do è di girare subito, perché altrimenti diventi dipendente da sta roba qua. È roba che fa male. Si chiama rock and roll. E soprattutto si chiama gruppi d'ascolto sparsi là fuori che regalano affetto. Veramente, ragazzi, regalate affetto come se piovesse. Io lo devo... Guarda, Spadino, io lo devo confessare. Ma vi voglio bene, ma tanto così. Voi non potete vedere quanto sto allargando le braccia. Spadino lo vede. Tanto, tanto. Cioè, mi bastano 7 minuti di diretta, un'occhiata veloce alle mail e agli sms che arrivano, e mi si gonfia il cuore. Io non ho veramente parole. Vi ricordo i contatti. 335-100-7777 è il nostro numero di sms. Vorrei dirlo, ma non posso. Perché non posso dirlo? Perché sono un signore. Voglio farlo a dire a lui in persona. Il nostro salvatore. Colui che ci permetterà di battere Golia e di gridare al mondo: la nicchia questa volta ha vinto! Lo scoprirete tra poco, qui su Rock FM. Intanto, un regalo, così. Strawberry Fields Forever. The Beatles. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, it's alright. That is, I think it's not too bad. down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Che ci siamo, ci si tuffa finalmente in un ottimo venerdì, un venerdì 18 ottobre con Pane, Burro e Rock and Roll e Roberto Fricantoni. Sempre qui a Radio Rock FM. La sento in forma stamattina. Sì, sì. Anche se dica, non mi sento, le do un colpetto, troppo aspetti, bene. Ah, oh, perfetto. Buongiorno. Buon venerdì 19 ottobre a tutti, radioascoltatori e radioascoltatrici. Tenetevi forte, c'è l'almanacco del giorno che fu. Che era, comincia il 19 ottobre del 1512. E cosa successe? Martin Lutero diventò dottore in teologia, doctor in Biblia. Molto interessante. Sì. Non aveva tutti i torti, sa, quest'uomo. Dice. Quest'uomo che attaccò sulle porte della cattedrale tutte le sue eccezioni, le sue polemiche, le sue regole. Perché, sa, a quel tempo, devo dire, questo è un difettuccio, sì, della Chiesa Cattolica, vendeva le indulgenze. Cioè, mettiamo il caso, sì, lei commetteva un peccato, fattaccio, un, sì, fattaccio, un peccato vuoi veniale, vuoi mortale. Una patente davvero rocker e si chiudeva un occhio. Esatto, si chiudeva un occhio, a volte a entrambi. Lei pagava e in qualche modo la sanzione le veniva tolta. Usciamo da questo vicolo cieco targato Martin Lutero e tuffiamoci in una polemica contro l'America. Le va, visto che abbiamo attaccato il Vaticano, perché non attaccare anche ma l'America? Certo, oggi venerdì 19 ottobre attacchiamo chi ci pare. Era il 1873 quando le università di Yale, Princeton, Columbia e Rutgers stilano le prime regole del football americano. La domanda è questa: ci volevano quattro università per stilare le regole di un gioco fatto con una palla ovale e dei maschi che si picchiano? Peraltro un gioco noiosissimo, assolutamente ripetitivo. Ma usciamo, che usciamo, noi europei non usciamo capiamo da questo sinceramente cul-de-sac, la prego. A noi sembra uno sport bruttissimo, con tutto il rispetto. Proseguiamo. Insomma, football americano non ci piace. Ecco. Passiamo al 1982. Che succede? Ah, no, colpo di scena, sì, eh? Dica. Era? Attenti, sì, bene. Allora, apro la busta numero 3. Sì, la 3, già aperta, esatto, dia la notizia. Allora, era il 1982. L'ho già detto. Leggo, sì, John De Lorean. Sì, buonanotte. John De Lorean. John De Come la macchina di ritorno al futuro. Perché John lui era De l'ingegnere che aveva, sì, inventato quella macchina. Aspetti, aspetti. L'ingegnere della famosa auto utilizzata in Ritorno, esatto, al futuro, proprio quello, e fu arrestato, sì, con l'accusa di traffico di cocaina. di cocainale, ecco qua, cocainale. Fortuna che c'è un happy ending, il buon John verrà successivamente assolto, vittima di una trappola degli agenti federali. Che proseguiamo polemica contro l'FBI, sì, vada, esatto, su spari a zero. Che dichiararono successivamente, volevamo fargli uno scherzetto. Esatto, una roba così. Amici dell'FBI, smettetela di nascondere cocaina nelle macchine degli altri. Basta con queste trappole di basso livello. La cocaina non va, per nessuna ragione, nascosta nelle macchine degli altri. E non dica che cosa ci si può fare. Grazie. E vorrei aggiungere... No. Oh, certamente, sì? Né neanche nella propria. Perfetto. E beh, che c'è? Ragazzi, roba forte, roba grossa. No, no, non sto parlando di quello che c'è nelle mie mutande. Sto parlando di un'altra cosa. Ti è piaciuta la trombetta? Uno dei nuovi tormentoni coniato qualche giorno fa e rubato a un presidente americano è non chiederti cosa pane, burro e rock and roll può fare per te. Chiediti cosa tu puoi fare per pane, burro e rock and roll. Un uomo che ormai non credeva più nella sua missione, un uomo che ha una tabaccheria e il suo esercizio tra l'altro sta crollando perché ormai lui, anziché lavorare, pensa solo a pane, burro e rock and roll, si chiama Carlo. Sì, ciao, eccomi qua. Carlo, bene. Diglielo tu. Guarda, è una cosa incredibile. In 10 volte che proponiamo in uno abbiamo beccato un ambo pieno su Milano. Ragazzi, è una cosa difficilissima, te lo garantisco. Ambo pieno su Milano. Ambo pieno su Milano. Su 3 numeri, 2 li abbiamo azzeccati, quindi su ruota fissa o su tutte, chi l'ha giocata su tutte, hanno preso 78 volte la posta puntata. Allora, io ricordo che questa è una rubrica che abbiamo un paio di volte alla settimana. Carlo ci aiuta a dare dei numeri rock che non usciranno mai. Questa volta sono usciti, però ci tengo a precisare che Carlo non ha giocato Lambo, quindi noi, e nel noi metto dentro Carlo che gioca e io che mi accollo alla sua giocata senza aggiungere un euro, non abbiamo vinto. Esatto, io sono stato troppo esoso, ho puntato tutto sul termo e quindi Lambo non l'ho preso, e ho già qui clienti che mi stanno facendo un mazzo tanto proprio perché questa cosa non lo faccio sempre così, io praticamente voglio puntare in grande. Ma quindi anche i tuoi clienti non hanno vinto? No, i miei clienti hanno vinto, infatti loro hanno puntato sia Lambo che il termo perché i miei clienti sono un pochino più coerenti di me. E quindi allora io ti segnalo Luca da Savona via mail che ci ringrazia, ho vinto con i numeri che avete dato questa mattina, e anche un amico Enrico via sms, o grazie per i numeri scrive. Allora ci tengo a precisare altre cose, commentavamo in fuori onda io e Luca, prima di tutto che battiamo 20-0 quelli della televisione. Preciso. Perché ricordiamo che noi i numeri li giochiamo una volta sola, precisamente, che è una regola completamente folle per chi gioca all'otto, che di solito gioca più volte la stessa giocata viene ripetuta in più sequenze. Noi giochiamo una volta sola e a colpo secco abbiamo beccato un albo, ma siamo talmente rock che noi non abbiamo vinto niente e voi sì. Carlo, io guarda, non ho parole, sembra che tutto stia tornando, capisci? Ok, quando, sono contentissimo. Quando negli scorsi giorni eravamo un po' giù e dicevamo no, questa cosa non ha senso, sì Carlo, non ha veramente senso ed è giusto che sia così. Io non ho parole. Sì, guarda, nemmeno io, sono rimasto folgorato veramente da questo tipo di condizione che è venuta fuori. Tra l'altro abbiamo vinto con il numero di sms di Rock FM. Precisamente, infatti, questo lo stavo dimenticando, che avevi anche un po' che avevi proposto tu poi alla fine. Grazie Carlo, sì, un po' è vero, devo ammettermi, sono stato io ad azzeccare il Lambo. Sì, Carlo, esatto. Buon proseguimento di giornata, io non so come ringraziarti, soprattutto da parte di quelli che hanno vinto. Sì, infatti, anch'io sono contentissimo per loro, guarda. Lanciamo un appello, ci dovete un caffè, sì. Una brioche, via. Esatto. Ci accontentiamo di poco. Sì, saluta i tuoi clienti, c'è lì qualcuno che viene? Sì, c'è qua Carla che appunto ha fatto una bella vincita, ha vinto un più di 100 euro, quindi grazie ai nostri numeri. Tra l'altro questo è un appello che lancio a chiunque abbia un esercizio commerciale, se aiutate Pane, Burro e Rock and Roll, poi Pane, Burro e Rock and Roll vi aiuta perché diventate celebri almeno nella zona, no? Sì, infatti, un po' di pubblicità si fa. Carlo, grande, grazie per l'emozione che mi hai regalato. Grazie a voi. A presto. Ancora. Ciao. Knock, knock, knocking on heaven's door.